Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. In mano afghana l'ospedale di emergency, obiettivo raggiunto, dice l'organizzazione. 8 indagati per l'incidente ferroviario in Val Venosta, lutto in Alto Adige. Calciopoli, il giorno del contrattacco di Moggi, anche Facchetti andava a casa di Bergamo. Il Papa vedrà le vittime della pedofilia lontano dai media. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Dopo l'arresto dei 3 italiani di emergency, la polizia afghana ha preso oggi il controllo dell'ospedale italiano. Insorge l'organizzazione di Nostrada che dice l'obiettivo ora è raggiunto, ma cerchiamo di fare il punto. Con noi c'è in studio Laura Bettini. Buongiorno a tutti. Sì, questa mattina la polizia afghana ha reso noto di aver preso il controllo della situazione dell'ospedale di Lashkarga nella provincia di Helmand. Secondo Emergency si tratta, lo sentiremo tra poco, comunque di una notizia perlomeno curiosa, poiché da sabato scorso i suoi operatori non entravano più all'interno di questo ospedale. Questa mattina invece il personale internazionale dell'ospedale che ancora si trovava a Lashkarga piuttosto ha lasciato la città ed è stato trasferito nella capitale afghana, Kabul. Questo ci dicono da Emergency grazie all'intervento della Farnesina e in particolare dell'ambasciatore italiano a Kabul, Glenzer. Un lavoro che è stato molto impegnativo, molto importante. Sentiamo però cosa ci ha detto poco fa Maso Notarian, che è il portavoce di Emergency. Questa cosa che è uscita sull'agenzia è bizzarra, perché in realtà noi non abbiamo controllo dell'ospedale dal momento in cui c'è stata l'irruzione delle forze di sicurezza afghane e dell'ISAF, e quando sono stati portati via i nostri internazionali, da quel momento nessuno di noi è più entrato in ospedale. Quindi praticamente da sabato? Da sabato, esattamente. L'unica novità di oggi è che gli altri internazionali, quelli che erano costretti in casa, non quelli arrestati, stamattina sono tornati a Kabul. In buone condizioni di salute, ovviamente sì, psicologicamente sì, sì, provati, però bene. Di salute, ovviamente psicologicamente provati, loro stavano comunque in casa, non stavano reclusi. A loro carico non c'è nulla? Ma neanche a carico degli altri, per cui che è dato sapere a noi. L'unica cosa è che comunque gli sono stati ritirati i passaporti. No? Quindi non c'è invece nessuna novità per quanto riguarda la posizione giuridica dei 3 arrestati italiani? Questi non sapete niente? Purtroppo no. I 3 arrestati quindi per ora restano in carcere. Per tutte le altre notizie l'appuntamento è sempre con i nostri giornali radio. Grazie a Laura Bettini. E questa mattina alla vicenda abbiamo dedicato anche il nostro sondaggio. Io sto con Emergency, l'appello lanciato dall'organizzazione di Gino Strada ha superato le 170.000 firme raccolte nel giro di 24 ore. Il nostro sondaggio di oggi partiva proprio da questo. Vi abbiamo chiesto: e voi da che parte state? State dalla parte di Emergency? Hanno prevalso i sì, con il 70%. Il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, nel respingere le accuse di una Farnesina che avrebbe abbandonato i 3 italiani arrestati, precisa: con Emergency non c'è problema, però forse il dottor Strada nel suo impegno umanitario si è messo a fare un po' troppa politica, il che ostacola anche un'azione che noi stiamo facendo molto discreta per arrivare a chiarire una situazione certamente di grande imbarazzo per il governo. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. E naturalmente continueremo nei nostri giornali radio a seguire la vicenda afghana. Sul fronte internazionale intanto però c'è anche il vertice sul nucleare iraniano voluto dal presidente americano Obama. A margine ieri si è parlato tra l'altro anche della questione di India e Pakistan, paesi con il nucleare vicini all'Afghanistan di Al-Qaeda. E se Obama aveva chiuso la prima giornata del summit con l'impegno di Pechino a lavorare insieme, questa mattina dalla Cina arrivano altre indicazioni. frenata parziale quella che arriva da Pechino alle sanzioni contro il nucleare di Teheran. Pressioni e sanzioni non possono risolvere il dossier iraniano, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Zhang Yu nel corso di una conferenza stampa nella capitale cinese. I migliori strumenti sono il dialogo e il negoziato. La Cina sostiene una strategia a doppio binario. Le parole della portavoce arrivano dopo l'incontro di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente cinese Hu Jintao a Washington, a margine del summit sulla sicurezza nucleare. Dopo il vertice, secondo i funzionari statunitensi, Hu aveva garantito l'appoggio cinese a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle attività nucleari iraniane. La posizione espressa a Pechino, insomma, appare più prudente di quella che era emersa a Washington e potrebbe gelare le aspettative statunitensi su un appoggio cinese. Un malinteso o una strategia del gambero? La Cina, che intrattiene stretti rapporti economici con l'Iran, si è sempre mostrata scettica sull'efficacia delle sanzioni. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. In Italia torniamo in Val Venosta. Il giorno dopo l'incidente ferroviario ci sono degli indagati. Il collega dell'Alto Adige, Orfeo Donatini. Ecco, oggi la situazione è ovviamente di lutto provinciale in tutta la provincia autonoma di Bolzano. Sul fronte degli interventi sul treno che è ancora in bilico sul fiume Adige, sta arrivando una potentissima gru per sollevare i tre vagoni e verificare anche, fugare quindi quell'ultimo dubbio che possa esserci qualche altra vittima sotto i rottami. Per il resto l'inchiesta è assolutamente aperta, ci sono 8 persone indagate, sono 6 dirigenti del consorzio di irrigazione che sono i responsabili delle tubature dalle quali sarebbe fuoriuscita l'acqua che ha provocato la frana che ha investito il treno e i 2 proprietari dei masi, delle coltivazioni, quindi delle mele che sovrastano la sede ferroviaria che è stata investita dalla frana. Per quanto riguarda invece il bollettino sanitario sui feriti, nessuno di quelli ricoverati nei vari ospedali della provincia di Bolzano è in pericolo di vita, anzi sono già cominciate le dimissioni, per ora sono soltanto 18 quelli ancora ricoverati, ma come detto nessuno è in pericolo di vita. Grazie Orfeo Donatini. E andiamo invece ora a Napoli, dove al processo per Calciopoli la difesa di Luciano Moggi, come ha annunciato, è passata oggi al contrattacco, con nel mirino soprattutto l'Inter. Cosa è accaduto? Come è andata l'udienza di oggi? Enzo Danna, buongiorno anche a te. Sì, buongiorno Anna. Paolo Trofino, uno dei legali di Luciano Moggi, ha chiesto al giudice di leggere il contenuto di una intercettazione telefonica finora non trascritta nel corso del dibattimento. Si tratta di una telefonata tra l'allora presidente dell'Inter, Giacinto Facchetti, e il designatore Paolo Bergamo, una telefonata del 26 novembre del 2004. Secondo l'avvocato Trofino, nella conversazione Facchetti indicava chiaramente a Bergamo gli arbitri da designare per quella giornata di campionato, chiedendo Collina per la gara dell'Inter. Ebbene, a giudizio del legale di Moggi si tratta di un intervento ben più grave di quelli finora addebitati proprio all'ex direttore generale della Juventus. Ma ascoltiamo una dichiarazione dell'ex designatore Bergamo. Sono convinto di far bene. La soddisfazione che mi deriva ora ancora di più è quella che il colonnello Auricchio ha detto in sede di riesame, che mai una mia telefonata con un arbitro, con un assistente, non è stata corretta. Quindi vuol dire che i miei rapporti con le società c'erano, i rapporti con gli arbitri erano corretti. Dopo una breve pausa è ripresa l'udienza, nella quale, come detto, i legali di Moggi hanno chiesto di acquisire i contenuti di 75 intercettazioni telefoniche che coinvolgerebbero i dirigenti di altre società, richiesta di acquisizione sulla quale naturalmente ora dovrà pronunciarsi il Tribunale. Per il momento, concluso da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie ad Enzo Danna. Chiesa e pedofilia, una notizia battuta da poco dalle agenzie. Il Papa è disposto ad incontrare le vittime degli abusi sessuali da parte di religiosi, ma in un clima di raccoglimento e riflessione, non sotto una pressione di carattere mediatico. Parole del direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi. Sabato e domenica il Papa sarà a Malta. Voltiamo pagina decisamente con i temi economici, a cominciare dalla Grecia. Si sono concluse con successo questa mattina le aste sui titoli di Stato, venduto l'intero importo offerto pari a 1,2 miliardi di euro a fronte di una domanda superiore all'offerta. Un segnale giudicato incoraggiante, ma in uno scenario valutario internazionale di cautela. In Italia sale ancora il debito pubblico, a febbraio si è attestato a quota 1.795 miliardi di euro, il dato arriva dal consueto bollettino di Banca Italia, ma se l'indebitamento cresce, le entrate tributarie sono invece in calo nel primo bimestre dell'anno del 2,5%. Sotto i riflettori oggi ci sono anche altri conti, quelli di Telecom Italia, che chiude il 2009 con un utile in calo ma sopra le attese. È così, Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi, ed effettivamente il titolo viene premiato oggi con un rialzo di quasi 3 punti percentuali a Piazza Affari. Il gruppo, come dicevi Anna, ha archiviato l'anno con un utile netto in calo di 596 milioni a 1,5 miliardi. E il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 5 centesimi per le azioni ordinarie. Telecom ha spiegato che il bilancio consolidato tiene conto delle rettifiche e degli accantonamenti che sono stati effettuati alla luce delle vicende giudiziarie relative all'indagine in corso a carico della controllata Sparkle e delle successive verifiche attivate sugli esercizi fiscali a partire dal 2005. Telecom ha fatto anche sapere di aver destinato l'accantonamento 2009, circa 500 milioni di euro, ad una sorta di fondo rischi creato ad hoc per fronteggiare eventuali oneri di carattere fiscale e legale legati alla vicenda Sparkle. Ricordiamo peraltro che proprio nei giorni scorsi sia Telecom Sparkle che Fastweb, entrambe coinvolte nell'inchiesta denominata frode carosello sull'operazione di maxi riciclaggio ed evasione dell'IVA, hanno raggiunto un accordo per evitare il commissariamento proposto dai PM di Roma. L'ultima cosa, Franco Bernabè, l'amministratore delegato del gruppo, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, la capacità di recuperare efficienza ha permesso al gruppo di raggiungere gli obiettivi di profittabilità e forse in prospettiva potrebbero essere aumentati anche i dividendi. E per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Noi apriamo la pagina politica. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha depositato questa mattina all'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione il quesito con cui si chiede l'abrogazione della legge sul legittimo impedimento. L'Italia dei Valori inizierà ora la raccolta delle firme. Altri due temi per la giornata politica, ancora le riforme e il dopo elezioni, con l'insediamento delle giunte regionali e il risultato degli ultimi ballottaggi. Sul primo fronte, oggi un nuovo intervento del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Sentiamo Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Rinnovarsi o perire, questa l'alternativa. Il Presidente della Camera cita Pietro Nenni per tornare sulla necessità di riforme. L'occasione è la cerimonia del trentennale dalla scomparsa del leader socialista. Gli anni 80, affermò Nenni, saranno decisivi, tutto è posto di fronte all'alternativa appunto di rinnovarsi o perire. Questa frase, ha detto Fini, può essere letta come un ammonimento per l'oggi, perché anche oggi rimane stretto il nesso tra la modernizzazione economica e quella istituzionale. Fini ha poi ripercorso la vita dello storico leader, era un uomo che aveva l'idea della politica come militanza e missione, una idea quanto mai attuale. Sentiamolo. L'idea della politica come missione è certamente valida e necessaria anche oggi, per consolidare ulteriormente la democrazia, per rinvigorire la coesione nazionale, per rinsaldare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Presente alla cerimonia anche il Capo dello Stato, che però non ha rilasciato dichiarazioni, e da Roma è tutto. 13:18, GR24 con le notizie di oggi. In mano alla polizia afghana l'ospedale di emergency, dicono le autorità di Kabul. Obiettivo raggiunto, la replica dell'organizzazione di Gino Strada. 8 indagati per l'incidente ferroviario in Val Venosta e lutto in Alto Adige. Calciopoli, il giorno del contrattacco di Moggi, parla il colonnello Auricchio. Anche Facchetti andava a casa di Bergamo, dice. Il Papa pronto ad incontrare le vittime della pedofilia, l'incontro forse già nel fine settimana a Malta. E ripartiamo dal dopo elezioni. Ieri il risultato inatteso a Mantova, dove per la prima volta dopo 65 anni il centro-sinistra ha perso la città, da oggi amministrata dall'architetto del PDL Nicola Sodano. Un ribaltone inatteso se si considera che il sindaco uscente Fiorenza Brioni, PD, era sostenuta anche da UDC ed Italia dei Valori. Allora il caso Mantova, sentiamo. Bentornata in Lombardia. Nelle parole del presidente Roberto Formigoni, la sintesi di una sconfitta per il Partito Democratico che brucia più delle altre. E già, perché non a caso Mantova era chiamata la Bologna Lombarda, roccaforte per 65 anni della sinistra. Da ieri l'amministrazione comunale passa a Nicola Sodano, PDL, architetto restauratore, buon amico del ministro Bondi. È una vittoria storica e spero di essere all'altezza rispetto alla fiducia che ho avuto, ecco, che è stata superiore alle aspettative. 1000 voti in più per Sodano ed un risultato inatteso se si considera che il primo turno si era chiuso con un vantaggio della Brioni, sostenuta anche da UDC ed Italia dei Valori insieme. Il mio rammarico è quello di non aver fatto scelte utili per lasciare le zavorre a terra, perché noi abbiamo avuto una legislatura, un mandato amministrativo assolutamente contrastato. Un partito lacerato da tempo, il PD a Mantova, sotto assedio della destra e della Lega, oggi vittoriose. Lo spiega anche il ribaltone dei dissidenti del PD proprio a Fiorenza Brioni dopo l'ultima elezione a sindaco, quando 3 assessori della sua giunta cambiarono casacca e quando Antonino Zaniboni, ex sindaco, ex parlamentare DC, poi Margherita, ha lanciato il suo partito Patto Nuovo, che oggi sfiora il 10%. Insomma, ancora scelte sbagliate, non da Roma, non centralistiche però questa volta. La Brioni è stata scelta dai mantovani con le primarie, ci ha raccontato Matteo Colaninno, parlamentare PD mantovano, componente della direzione nazionale del partito. Il centralismo del Partito Democratico con Mantova non c'entra proprio niente, anzi, è proprio il contrario. La scelta della candidatura è avvenuta per scelta del territorio, che ha optato, diciamo, per le primarie, dove il territorio ha indicato Fiorenza Brioni. È noto perché è apparso sulla stampa locale che invece la segreteria regionale e altri organismi dirigenti erano per innescare un rinnovamento e un cambio di candidatura che invece il territorio ha confermato. E adesso si discuta, si augura Colaninno, ma si stabilisca un termine entro il quale decidere. Per i prossimi 3 anni non ci saranno consultazioni elettorali, che la discussione non prosegua sino alle politiche. Non dibattere all'infinito, perché sennò dibattiamo tra di noi e i cittadini come a Mantova poi guardano altri. Anna Rita D'Ambrosio, GR24, il Sole 24 Ore. E da Mantova al Veneto, dove si insedia questa mattina il neogovernatore Zaia, Silva Menetto, buongiorno. Buongiorno, infatti è stato il primo giorno a Palazzo Balbi per questa nuova giunta regionale che Luca Zaia ha varato veramente in tempi record, meno di 48 ore per designare 6 assessori del PDL e 6 della Lega, che sono anche ben distribuiti come rappresentanza territoriale. Resta il fatto però che il peso della compagine leghista risulta nettamente superiore, perché intanto leghista è il neogovernatore, ma anche perché gli assessori del Carroccio si mostrano molto compatti, hanno ottenuto deleghe importanti come sanità, bilancio e sviluppo economico. Comunque a Palazzo Balbi tutti questa mattina si sono accorti dell'accelerazione proprio che è stata impressa alla macchina amministrativa da Zaia. Il neogovernatore ha pubblicato inoltre nei giornali locali una lettera aperta per ringraziare quanti lo hanno sostenuto con il voto, ma anche in generale tutti i veneti, ai quali Zaia proprio ha promesso una regione rivoluzionata in tempi brevi, soprattutto grazie al riconoscimento del federalismo da parte del governo. E i primi ad apprezzare il New Deal, diciamo, di Zaia sono stati gli industriali, che sentiamo proprio il presidente ringraziare direttamente questa mattina. Pensa cosa sarebbe per gli industriali poter avere una regione che va a negoziare col 116 la competenza esclusiva in materia di energia. Significa acque, significa salti, piuttosto che la gestione del catasto, la polizia locale, l'università e quindi la programmazione, che so, dei flussi immigratori. Cioè, questi sono temi che non sono in contrapposizione con una politica nazionale, che però vedrebbero in maniera esclusiva una gestione regionale. Quanto ai tempi, Zaia ha aggiunto che la piattaforma negoziale sull'autonomia regionale dovrebbe essere pronta prima dell'estate e quindi poi da proporre direttamente al governo centrale. Per il momento è tutto. Grazie anche a Silva Menetto. In Piemonte andiamo ora invece con il viaggio con i giornalisti camminatori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, una nuova tappa con Paolo Piacenza. Quarto giorno di cammino per noi giornalisti marciatori, i Piemonte Patriots partiti da Torino per incontrare Enrico Brizzi e i suoi compagni di strada di Italica 150 a Castelmassa in provincia di Rovigo. Questa mattina siamo arrivati a Casale, i chilometri da Torino sono 80 parecchi, soprattutto per chi di noi se li è fatti tutti passo dopo passo. Ieri il Basso Monferrato ha regalato sorprese, le splendide cascine Gambarello tenuta settecentesca con 150 ettari di terreno che furono dei Marchesi Ricci e poi di Riccardo Gualino fino al fallimento del 1933. A Castagnone c'è un po' di preoccupazione per un grande impianto fotovoltaico in progettazione. Nel nome dell'energia pulita si occuperebbe una porzione di paesaggio e due interessi si scontrano, ma la nostra padrona di casa, Ozzano Monferrato, dice che va tutto bene pur di ridurre il prezzo dell'energia. Oggi siamo arrivati a Casale Monferrato, è il giorno di mercato, ma soprattutto è il giorno dopo la prima deposizione al processo contro la Eternit a Torino. Ha parlato il sindacalista Nicola Pondrà. Alla Eternit è dal 1976 protagonista di una battaglia per la salute in fabbrica che ha anticipato di decenni la svolta del sindacato. Dice che è andata bene, ho rievocato una lunga lotta e tanti troppi morti. Finora sono più di 1500 tra lavoratori Eternit e cittadini di Casale. Altri 1500 i malati ogni anno qui si ammalano in 50. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Casale Monferrato. Una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie. Scritte oscene a sfondo sessuale così offensive da non poter essere riportate sono state trovate sui muri della casa natale di Papa Benedetto XVI nella cittadina bavarese. Lo scrive oggi il giornale locale. Il riferimento, ha spiegato un portavoce della polizia dell'Alta Baviera, è allo scandalo pedofilia che sta scuotendo la Chiesa cattolica. E per la cronaca, colpo grosso a Milano, un colpo da circa 1 milione di euro messo a segno in una società che si occupa della commercializzazione di preziosi. I ladri hanno aperto una cassaforte portando via orologi e gioielli. Il furto è stato scoperto stamane. Corsa aperta per gli italiani, ci saranno a Cannes, sentiamo. Meno un mese a Cannes, sono ancora giorni di attesa per gli italiani. A oggi nessun invito ufficiale, ma spera ancora Daniele Lucchetti con La nostra vita, per il quale è tornato a dirigere Elio Germano. Insieme già a Cannes in Mio fratello e figlio unico potrebbero andare nel concorso principale o tornare nella sezione Un certain regard. Il film, sceneggiato ancora una volta con Sandro Rulli e Stefano Petraglia, ha nel cast anche Raul Bova, Isabella Aragonese e Luca Zingaretti. Le notizie dell'ultima ora smentiscono una possibile presenza di Mario Martone. Il colossal risorgimentale Noi credevamo potrebbe preferire Venezia anche per motivi istituzionali legati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Alle sezioni collaterali potrebbero approdare Una vita tranquilla di Claudio Cupellini con Toni Servillo che rievoca la strage di Duisburg in Germania e Michelangelo Frammartino con Le quattro volte, un film sulla storia di un vecchio pastore dell'Appennino calabrese. Potrebbe essere pronto anche La bellezza del somaro di Sergio Castellitto, ma anche lui preferirebbe Venezia o Roma. Le carte verranno svelate dopodomani. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi lascio con Italia in controluce. Ancora un saluto da Paolo Corleone in regia, Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale. La prossima, come sempre, alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.